9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 24 maggio, Santa Maria Ausiliatrice. Oggi direi che, visti gli andamenti dell'Eurovertice di ieri e se si dà un'occhiata a tutti i giornali europei questa mattina, bisogna aggiungere dopo Maria Ausiliatrice il rituale ora pro nobis, perché è il caso veramente che anche qualcuno in alto metta una mano sulla testa dei politici europei, perché come si è capito il vertice di ieri ha solo preso tempo e il vero appuntamento sarà tre giorni dopo le elezioni greche del 17 giugno. E molta attenzione cari ragazzi, perché nelle prossime settimane i mercati danno per scontato che se i greci voteranno per i partiti che dicono in sei punti, come quelli annunciati da Tsipras, il leader di Syriza, sinistra radicale, stop al rigore in Grecia, i mercati tradurranno la cosa come in agenda. Punto numero uno, uscita dalla Grecia. Punto numero due, diventerà l'effetto a catena sulle banche spagnole, quelle italiane e così via. E il punto numero tre è che i politici hanno a quel punto 72 ore al vertice europeo che viene per capire se si cambia linea sulla federalizzazione di una parte del debito pubblico di ciascuno. E a prescindere da quello che io ne possa pensare, perché è una classica soluzione che non mi convince, ma in realtà o c'è qualche cosa di paragonabile oppure le crisi a catena a quel punto cominciano, e quindi ci aspetterebbe un agosto d'inferno, per essere diciamo abbastanza approssimativi per difetto. E naturalmente speriamo che i politici europei riflettano, ciascuno per la propria parte, che lo facciano i paesi che hanno fatto azzardo morale, noi siamo tra quelli, quindi prima di prendersela solo con i tedeschi bisogna sempre ricordarselo, ma il fatto è che adesso o c'è una svolta cooperativa oppure è logico che ciascuno persegua strategie alternative, sapendo che se escono i deboli dall'euro ci rimettono molte decine di punti di PIL di valore reale, di risparmi e patrimoni. Cosa diversa è se i deboli fanno fronte comune a uscire qualcun altro, cioè i tedeschi. Vedremo, sono scenari che tutti continuano a descrivere come fantascientifici, ipotetici, ma si avvicina sempre di più il Red Ration. Di che cosa ci occupiamo nella puntata di oggi? Oggi facciamo un'altra puntata dedicata alla nostra iniziativa Disperati Mai Chiocciola Radio24.it, che continua da settimane, come sapete, che mi è sembrata sempre più utile di fronte al fatto che le risposte della politica poi sono, nel migliore dei casi, inadeguate, come a mio giudizio abbiamo visto ieri e continueremo a vedere oggi, i decreti per l'avvio a pagamento dei debiti commerciali che lo Stato non paga alle imprese e dei crediti fiscali e IVA vantati dalle imprese nei confronti dello Stato. Ma cominciamo innanzitutto oggi dando voce a chi in una regione italiana protesta consegnando le chiavi delle imprese, naturalmente in forma ideale, però è una forma di protesta tra le più estreme che si possa immaginare, nella legalità, perché noi difendiamo sempre la legalità, ma siamo convinti che nella legalità lo Stato vada portato alla sbarra per tutte le sue inadempienze. E oggi a protestare con la consegna simbolica delle chiavi delle loro imprese sono Confartigianato, CNA, Casartigiani del Piemonte. E oggi c'è questa giornata di mobilitazione, questo giovedì 24 maggio, per consegnare ai prefetti in tutte le province piemontesi e al presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, idealmente le chiavi di questi 11.000 artigiani che in Piemonte solo hanno dovuto chiudere un terribile 2011, bruciando 18.000 posti di lavoro e con un saldo negativo nelle imprese artigiane. È la prima volta che avviene in quella regione. Abbiamo con noi Giorgio Felici, che è il presidente regionale di Confartigianato Imprese Piemonte, che ringrazio e saluto, e gli cedo volentieri la parola per spiegarci gli anni alle spalle, gli ultimi anni, l'interlocuzione o il loro giudizio su quello che i diversi governi hanno fatto o non hanno fatto e il significato della giornata di oggi. Buongiorno Presidente, lei. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, noi evidentemente non è che protestiamo contro la crisi, perché la crisi è un fattore che ci può toccare in modo civico, eccetera. Noi protestiamo contro una politica che per decenni è sempre stata ostile al lavoro, sia in forma dipendente sia in forma autonoma, noi rappresentiamo ovviamente gli imprenditori, e quindi una politica di mancata programmazione. Allora, il senso della tragedia che vivono molti imprenditori oggi è quello proprio di aziende che hanno lavorato, hanno lavorato bene, hanno lavorato per la pubblica amministrazione, non sono state pagate. D'altra parte lo Stato, quando deve esigere i tributi, quando deve esigere l'INPS, l'IVA, eccetera, è molto feroce nel farlo e non tollera più di tanto i ritardi. Lui stesso però non è un interlocutore credibile, affidabile, perché comunque quando c'è da pagare i conti non li paga. Quindi questo determina la chiusura di tantissime aziende, ultimamente in Piemonte ne sono chiuse 11.000, quando chiude un'azienda viene a morire un patrimonio di professionalità, una storia di lavoro e di rapporti anche sindacali, e quindi non è solo la famiglia dell'imprenditore, sono famiglie di dipendenti. Lei diceva bene, prima sono stati persi 18.000 posti di lavoro, è molto grave perché poi reintegrarli in altre situazioni è davvero difficile e si finisce per pesare su un sistema che sta già collassando. Adesso il governo pare che voglia sbloccare i crediti che le imprese hanno nei confronti della pubblica amministrazione. Io per carità non sono fiducioso fino a un certo punto, nel senso che aspetto che il primo imprenditore incassi i primi denari per dirmi soddisfatto, perché voglio ancora vedere, non so poi dove riuscire a trovarli, nel senso che quando si tratta di fare cassa alla fine si preleva sempre dai soliti, che siano autonomi o che siano dipendenti. La mia preoccupazione e il senso anche della preoccupazione dei miei associati, per cui oggi facciamo questa manifestazione, è anche quello che le aziende che sono riuscite in qualche modo in questi mesi a sopravvivere grazie alla professionalità, alla dedizione, al sacrificio, vengano poi massacrate dagli studi di settore, perché io non so se tutti i radioascoltatori sono informati di come funzionano gli studi di settore. Diciamo che noi ci torniamo spesso su questo argomento, quindi dovrebbero sapere. Sono accertamenti induttivi che hanno una valenza estorsiva, perché in definitiva lo Stato viene, ti chiede una cifra spropositata e poi bonariamente si accorda per un 30%, perché se tu fai opposizione te la mette a ruolo. E quindi capisce che è un modo, uno Stato non dovrebbe comportarsi in questo modo. E quindi il senso della nostra protesta è proprio che siamo esasperati, non siamo dei piazzaioli, manifestazioni ne facciamo sempre molto poche, la nostra storia non è ricca di momenti di piazza, per così dire. Però davvero noi interpretiamo una vasta parte della società, le imprese del commercio, ma anche le imprese del commercio e dell'artigianato in Piemonte sono più della metà della popolazione lavorativa, sono il 55% tra imprenditori e dipendenti. Oggi protestiamo noi artigiani e diventa. E però i commercianti hanno protestato la scorsa settimana, cioè è tutto, è una catena, il sistema sta collassando. Noi abbiamo una serie di imprenditori che si sono tolti la vita, perché veramente voi dovete pensare anche alla tensione psicologica di un imprenditore che si trova a dover pagare in ritardo i dipendenti, addirittura non ce la fa, perché magari deve incassare dei crediti. È gravissimo questo. La preoccupazione nostra è che i casi estremi poi prendano un'altra via, cioè che poi qualcuno esasperato faccia delle altre scelte piuttosto che togliersi la vita, come sta già succedendo. Quindi vada negli uffici della pubblica amministrazione a fare qualche mattana che noi censuriamo assolutamente. Censuriamo e condanniamo, e mi consenta di ricordare che anche ieri proprio un artigiano a Genova, si chiamava Italo Agus, per una cartella di Equitalia a 30.000 euro ha deciso di farla finita e si è impiccato con la cinghia della tapparella della persiana, lasciando delle righe in cui diceva non ce la faccio più. Naturalmente sono casi di cui noi abbiamo iniziato a parlare sempre più con discrezione, perché ci hanno accusato, anche se poi li citiamo, di voler, per così dire, incitare l'emulazione. Non si tratta di questo, ma è un fenomeno che purtroppo continua giorno dopo giorno. Allora, se me lo consente, diamo un'indicazione di senso opposto. Guardi, gli imprenditori hanno un grosso difetto, hanno un peccato originale, quello di essere molto individualisti. Spesso c'è un ritegno esagerato nel mettere a nudo le proprie problematiche con i propri colleghi. Le associazioni di categoria servono anche a questo. Nel 99% dei casi un problema sottoposto all'associazione di categoria, quando si può, ma nel 99% dei casi secondo me si può, comunque per male che vada assume delle connotazioni meno gravi, perché viene sviscerato e viene affrontato. Questo non significa sminuirlo, significa solo che ci si mette a confronto. siamo tutti degli imprenditori, a tutti prima o poi capitano dei momenti di tensione finanziaria e quindi è chiaro che deve essere gestita. Poi, oltretutto, io la do come breaking news, io so che nel nostro territorio le prefetture stanno cercando in qualche modo di mandare, ad esempio, di contattare gli imprenditori per capire se la presenza sul territorio delle forze dell'ordine in veste bonaria così possono un pochino allentare la tensione, ma gliela butto lì brevemente. Un maresciallo dei carabinieri che fa un giro attraverso le aziende, i negozi della zona e dice come va, se è riuscita a risolvere quella questione, secondo me è un volto dello Stato bonario e potrebbe aiutare ad allentare un pochino la tensione, anche perché, mi perdoni se dico questo, i carabinieri sono risaputamente una delle pochissime istituzioni a godere ancora un po' di credibilità in questo paese. No, non c'è dubbio. Io volevo sottolineare che tra i punti che voi formalmente oggi avete posto alla base della vostra giornata di mobilitazione, di consegna ideale delle chiavi ai prefetti e al Presidente della Regione, ce ne sono alcuni che a mio personalissimo giudizio avrebbero dovuto costituire da tempo molto lungo una base di una elementare, ragionevole, non tratta di essere politiche, base di introduzione di nuovi provvedimenti, quello che poi la platea della piccola impresa che è attentata nella sua continuità in questo 2012 chiede, sono cose secondo me di elementare buonsenso. Le voglio solo elencare un paio, perché uno riguarda proprio come fare nei confronti di Equitalia. Qui non è che si neghi il dovere dell'assolvimento di ciò che lo Stato chiede. Chiedete giustamente di ampliare la platea dei beneficiari delle rateizzazioni, di aumentare il numero di rate oltre 72 mensilità, di abbattere la percentuale introitata da Equitalia entro i 60 giorni e di ridurre considerevolmente quella ulteriore negli altri 60 giorni. E poi un'altra cosa di cui si è parlato poco e riguarda invece l'imposizione immobiliare, cioè l'IMU, che come è giusto e comprensibile per esempio che ci sia l'eccezione per cui l'IMU non la paga che sta nel terzo settore e utilizza gli immobili a fini strumentali per l'esercizio della propria attività, a maggior ragione non è che si chieda l'esenzione totale, ma almeno l'abbattimento del 50% dell'aliquota ordinaria per quegli immobili che vengono utilizzati come strumentali per l'attività d'impresa, perché non è che uno proprio possa dire che per come ce la passiamo l'occupazione e la creazione di reddito debba non essere incentivata o no. No, infatti, guardi, il problema è questo, noi varia da comune a comune, non riusciamo neanche a raccapezzarci né più di tanto, ma ci sono delle situazioni che vedono a volte un ICI da 500-600 euro trasformato in un IMU da 2-3 mila euro. Lei capisce che in una situazione di tensione come questa diventa difficile fare fronte anche a questo genere di costi. Pensi che la marginalità dell'attività di un'azienda impresa artigiana, quindi un capannone con qualche dipendente così, adesso con la crisi per continuare a garantire continuità dei lavori si è abbassata, e quindi perché certi prezzi sono stati abbassati e quindi non è che si possa più lavorare a delle condizioni premiali per il lavoro. Per carità, non ci lamentiamo di questo, diciamo solo che se si esagera nell'imposizione a chi già paga, a chi crea occupazione, a chi già ha dei margini molto risicati, veramente poi le aziende chiudono e forse dopo è peggio, perché poi non possono più garantire lo stipendio alle persone e quindi è un circolo vizioso. A volte ci viene il sospetto che sia un disegno globale volto a sopprimere l'economia di questo paese, si sta cercando di massacrare la manifattura. Qualunque governo tutti i governi non hanno mai messo mano al decreto di attuazione della legge sul Made in Italy, ad esempio. Perché? Cioè, che sarebbe la cosa normale. Cioè, c'è una legge che tutela il Made in China, che sembra una barzelletta, che per carità avrà le sue premialità, ma non ce n'è una che sia, c'è una legge sul Made in Italy che manca del decreto attuativo, ma mi chiedo chi è che si mette di traverso, cioè lo so benissimo, ma non lo dico per radio. Però siamo abbastanza. Vogliamo ricordare anche un altro esempio della incomprensibile, ottusa resistenza politica della pubblica amministrazione su un'altra istanza che è richiesta da tutte le associazioni di impresa da tempo, immemorabile man mano che la crisi andava avanti, e non ha avuto alcuna risposta sul DURC? Sì, allora guardi, il DURC è una vexata question. Nel senso che è giusto, secondo me, per correttezza, come principio, che l'amministrazione dia lavoro a chi è regolare nei contributi, però rischia di essere un cane che si morde la coda. Perché appunto il DURC, per chi non lo sapesse, è la sigla acronica dell'attestato che dice che l'imprenditore è in regola col versamento dei contributi. Ecco, ma nella maggior parte dei casi il contribuente non è in regola perché non incassa lui i soldi che gli deve lo Stato. oppure c'è non incassa i soldi da dei privati che loro, da delle altre aziende che a loro volta devono incassarli dallo Stato, quindi è un circolo vizioso e alla fine uno non può partecipare alle gare d'appalto, quindi non prende dei lavori e quindi la situazione si incancrenisce ulteriormente, cioè viene applicato il rigore essenzialmente a danno degli ultimi anelli della catena, quindi come vengono massacrati i pensionati, vengono massacrati gli esodati, vengono massacrati gli imprenditori che lavorano per la pubblica amministrazione. Io personalmente le dico, non rispondo neanche ai preventivi della pubblica amministrazione, salvo un caso di un cliente storico e corretto qua sul territorio, però io non rispondo ai preventivi delle pubbliche amministrazioni, perché comunque è una perdita di tempo e perché comunque vado a infilarmi in problemi che secondo me non sono, perché preferisco evitare, ma glielo dico io come azienda. No, ma ho capito perfettamente. Guardi, io ringrazio il Presidente Giorgio Felice e con solidarietà sostegno alle azioni delle imprese della vostra filiera e della vostra associazione dell'artigianato piemontese, come da questa radio di Confindustria, oggi cambia il Presidente, c'è tra poco l'assemblea pubblica in cui Giorgio Squizzi esordisce alla guida della sua associazione di Confindustria, che è editore di questo radio, però noi ci siamo sforzati, lo avrete capito, di dare voce a tutte le associazioni d'impresa, di non dimenticare i dipendenti, i lavoratori dipendenti che rimangono per strada, e quindi al sindacato. La sigla vera con cui fare fronte a questa crisi si chiama coesione, si chiama unità, non è che andiamo a vedere la tessera di quale associazione, non conta niente quello, agli occhi miei di sicuro vi posso garantire, a quelli di Sebastiano Barisoni non conta nulla, quindi sostegno a queste proposte che sono proposte ragionevoli, ed è irragionevole invece che la politica si volga da un'altra parte continuando a dire ma non siamo noi responsabili. Certo, la responsabilità della crisi italiana affonda la sua radice in comportamenti decennali e ma questa non è una buona ragione per cui a chi è al comando pro tempore, proprio perché capisce meglio di altri forse la condizione di tensione e di torsione dell'economia italiana, non debba dare le risposte che sono sacrosante, perché le imprese che muoiono e il lavoro che sparisce non si rifanno poi per decreto. Per decreto si può tentare di evitare che avvengano, ma se non si fa neanche questa cosa, talvolta questi toni di presunzione, di superbia con cui parla la politica appaiono veramente lontano anni luce rispetto alla situazione attuale. E a questo punto ne approfitto per leggere una lettera per introdurre il tema che poi riprenderemo tra poco, esattamente quello dei decreti varati ieri dal governo, che io già ieri ho esposto con molti punti critici. Io rimango convinto che non sia una buona soluzione quella dei quattro decreti, per quanto capisco che la situazione di impresa debbano dire, abbiamo sentito ieri il presidente Lancia Buzzetti, è comunque un passo avanti, ma è un passo avanti non risolutivo, in cui lo Stato mette a propria tutela altre garanzie, se la scrive nel proprio ordinamento che ha sempre ragione lui, e a me questa cosa appare completamente intollerabile. Allora, è la lettera di Marco Guerra che ci ha scritto, è un piccolo imprenditore che opera spesso con l'ente pubblico, soprattutto comuni, e ci ha espresso la sua opinione rispetto a questi decreti. Per capire cosa fare con la mia impresa ho studiato gli ultimi atti del governo, e inizia con adeguamento alla direttiva europea sui tempi certi di pagamento tra soggetti economici. Marco scrive: il governo prepara un provvedimento che accoglie la direttiva, per tutti saranno 60 giorni di scadenza dei pagamenti privato-privato e privato-pubblico, è festa, tutto bene, peccato. La ragioneria generale dello Stato riesce a far introdurre un piccolo emendamento alla legge per riservarsi la facoltà di regolare nello specifico il pagamento del pubblico verso il privato a un regolamento specifico da adottare quando, ma intanto l'obbligo sul privato scatterà. Esito: io dovrò pagare i fornitori, come peraltro mi sforzo sempre di fare alla scadenza dei 60 giorni, ma non avrò alcuna certezza di incassare dal pubblico negli stessi tempi, perché lo Stato regolerà se stesso in un qualche futuro, poi ci farà sapere, e in ogni caso dalla somma dei termini ordinatori previsti nei decreti emanati ieri, di cui ho letto solo sui giornali, mi pare che il tempo vero sia di 6 mesi come minimo, non 60 giorni. E allora io dovrò accedere al solito credito bancario, e sono già molto fortunato perché me lo danno ancora. Dunque io pagherò gli interessi alle banche, ma lo Stato prenderà in aggiunta anche l'IRAP, ad esempio, perché gli interessi su quella fiscalità non sono detraibili. Pagherò quindi più tasse allo Stato per colpa dello Stato che non mi ha pagato e che ora, pretendendo di emanare nuove norme per il pagamento, in realtà consolida il suo diritto a non pagarmi come chiede a noi privati di pagare. Questo è il punto fondamentale, la totale asimmetria di uno Stato che vi tratta da schiavi. Non voglio urlare perché molti dicono che urlo troppo, bisogna dirlo a voce bassa: schiavi, schiavi, siamo e siete schiavi perché accettiamo l'emanazione di norme in cui lo Stato ci tratta da schiavi. E a dire la verità, chi accetta questo, dopo una certa misura, quella di molti decenni, forse merita di essere trattato da schiavo, se non reagisce. Raffica di SMS in reazione alle mie ultime frasi sullo Stato che ci tratta da schiavi e che se non reagiamo dopo decenni meritiamo di essere trattati come tali. Tre tipi di reazione. Il primo, quello della paura rassegnata. E come facciamo? Tutte le mani, tutte le armi sono nelle mani dello Stato, le armi dell'ordinamento ovviamente, non equivocate. E questa è la classica reazione da paura, la capisco, è quella di coloro che sono travolti dallo strapotere dello Stato che scrive norme asimmetriche a proprio vantaggio e si dà ragione nei tribunali. Purtuttavia il diritto alla protesta quando i propri diritti naturali sono violati, protesta estrema, sia pure fatta in maniera autodichiarata e legalitaria, ci sono la nostra portata e di lì che nascono poi, perdonatemi, anche il successo di movimenti come quelli di Grillo. Avete visto che nella riforma del finanziamento dei partiti i signori dei partiti vogliono, guarda caso con un codicillo, negare i rimborsi elettorali a movimenti come quello di Grillo? La risposta è che quelli soldi non li prendono, sono due volte meglio di loro, i mezzucci di questo sistema dei partiti testimoniano che è finito, che non riesce a interpretare le richieste che vengono dal basso. Poi c'è un secondo tipo di reazioni che è invece quello di chi mi digrigna i denti e dice: bastardo Giannino, taci e paga le tasse. E questi, diciamo così, è il secondo tipo di reazione, che può essere a propria volta diviso in due categorie. Vi sono coloro che di un ordinamento autoritario e liberale traggono vantaggi, sono molti milioni in Italia, molti milioni, diciamo i topi nel formaggio, per così dire, e allora in questo caso posso anche capire. Poi invece c'è una reazione di coloro che non sono affatto topi nel formaggio, ma hanno accettato la campagna di odio e divisione sociale che lo Stato autoritario e liberale dall'alto compie nei confronti delle diverse classi dei cittadini. Classico esempio, quelli che hanno sostituto l'imposta contro i lavoratori autonomi e gli imprenditori. Cadere in questa trappola significa rendere ancora più forte uno Stato asimmetricamente illiberale, cioè autoritario. Questa è la mia opinione, di chi è convinto che i diritti naturali delle persone e degli ambiti in cui si estrinsecano le loro libertà, e cioè la vita privata, individuale, ma la famiglia e l'impresa, vengano prima di qualunque pretesa dell'ordinamento. Capisco che la maggioranza, probabilmente di chi ascolta, è convinta invece che il diritto positivo e lo Stato viene prima. Per me viene prima la persona e la sua libertà. La libertà, che significa il diritto di proprietà. La prima cosa è quello, il diritto alla vita, naturalmente, il diritto a organizzarsi per l'impresa in maniera tale da poter procurare reddito a sé, agli altri, ai propri familiari, a tutti coloro con cui si lavora insieme. Queste cose vengono prima e noi ci siamo dimenticati che secoli di diritto naturale e di diritto liberale dicevano che queste cose venivano prima. A furia di essercelo dimenticato e di aver dato ragione allo Stato, lo Stato ci ha trascinati dove siamo. Diciamo nella melma, va, per usare un termine che probabilmente andrebbe forse utilizzato anche in un'accezione leggermente diversa, ma che a quel punto mi esporrebbe a essere attaccato. Allora, torniamo ai decreti di cui abbiamo appreso ieri i lineamenti per il pagamento del debito non onorato dallo Stato ladro, e vediamo se alcuni dei punti, le domande che ci vengono da moltissimi ascoltatori sono: è vero o non è vero che al sud non si vedrà niente? È vero o non è vero che chi ha crediti nei confronti della sanità in tutte le regioni sottoposte a rientro 4 non vedrà niente? Proprio questi punti tentiamo di toccarli con Stefano Rimondi, che è il presidente di Assobiomedica. Assobiomedica, lo ricordo, è la federazione di quelle imprese che appunto producono, offrono tecnologie biometriche, diagnostiche, apparecchiature medicali, quindi stiamo parlando di un settore di impresa che ovviamente ha a che fare costitutivamente con la sanità pubblica e che quindi è gravato da un bel po' di pacchi, di miliardi di debito commerciale non onorato dallo Stato. Buongiorno e grazie al presidente Stefano Rimondi, e ci dica la vostra opinione di quello che avete capito dei decreti di ieri. Buongiorno, io Giannino le chiedo una brevissima premessa. Sì. La mia azienda, come tante altre di questo settore, ha sede nella zona terremotata, nel Mirandolese, dove c'è il più grosso distretto europeo per i dispositivi medici, sono oltre 100 aziende, oltre 5.000 addetti, quindi una parte veramente, ripeto, il più grande d'Europa. siamo veramente in grave difficoltà. Se vivessimo in un paese che ha un sistema paese e che ha una cultura industriale, il primo provvedimento in questi giorni di aiuto alle imprese per riprendersi sarebbe quello di dire: vi paghiamo i vostri debiti. Lei ha sentito qualcosa, i vostri crediti, ha sentito qualcosa di questo genere? Io no, mi auguro che questa sensibilità possa nascere, perché non abbiamo bisogno che qualcuno venga a darci aiuti, abbiamo bisogno di essere pagati, tutto lì. Questo sarebbe il vero aiuto. Ripeto, la sensibilità di capire che questo è il primo intervento me la sarei aspettata, ma non ho visto nessuna traccia di note in questo senso. Vengo ai decreti e le dico subito che c'è una cosa che non possiamo negare di positività, ed è il fatto che finalmente l'entità del problema e la sua gravità sono ammesse. Quindi il precedente governo lo ignorava, questo almeno ha deciso che il problema esiste e ha deciso di cominciare a muoversi in un'ottica di affrontarlo. Giusto, perché un passo avanti quello di almeno ammetterlo che il problema esiste. Ammetterlo e cominciare a ragionare per. Ciò detto, la positività purtroppo per le nostre aziende, parlo per le nostre aziende, tende a finire qui. Io ho una lista che la annoierebbe a morte di tutti i punti che mi sono segnati. Intanto entriamo nel merito un po', perché si tratta di spiegare proprio, perché facciamo campagne ideologiche. Assolutamente. Allora, comincio dall'ultimo, guardi, il punto che mi ero segnato, che per me però è il più grave, perché istituzionalizza una cosa che non sta né in cielo né in terra, ed è che in questo paese, quando ci sono da ripianare dei debiti, gli oneri finanziari, quindi le morosità legate a questo ritardato pagamento, vengono messe a questo punto per decreto, come se fosse una cosa naturale, a carico del creditore. È il creditore che deve farsi carico degli oneri finanziari. Questa è una logica perversa. Fino a quando lo era di fatto, adesso viene proprio sancito. Sono le singole aziende che devono contrattare con le banche sulla base di essere pagate con l'onere finanziario legato a quello che è il finanziamento della BCE più uno spread a carico, ripeto, del creditore. E questo ovviamente mantiene delle storture, perché favorirà le grandi aziende rispetto alle piccole e medie, ovviamente è una questione di rapporti di forza, favorirà chi opera in regioni meno disastrate e così via. Questa è la cosa di principio che è veramente assurda. Però le dico altri tre punti fondamentali. Primo, come già è giustamente stato fatto notare da più parti, sono escluse le regioni sottoposte a piani di rientro e le regioni commissariate, tradotto proprio quelle che accumulano la maggior parte della massa di debito inevaso da parte della pubblica amministrazione. Quindi una gran parte della massa creditizia è esclusa dal provvedimento. Poi c'è una cosa che io trovo veramente gravissima. Si esclude la certificazione per quei crediti che sono stati azionati, il termine che usiamo noi, da parte del creditore. Cioè, quando il creditore, vedendosi nell'impossibilità di accedere alla riscossione dei propri crediti, agisce per vie legali, cioè con gli strumenti che la legge dello Stato italiano gli mette a disposizione, questi vengono esclusi dalla certificazione, che è un sistema, se mi permette, vendicativo. Cioè, hai pensato di poter agire secondo i criteri di legge per avere diritto ai tuoi crediti, a questo punto sei punito, passi nella lista dei cattivi, non ti certifichiamo nemmeno quel credito. Questa è un'altra cosa che, a mio avviso, non è degno di un paese, ripeto, che abbia una cultura industriale. Uniamo a questo il fatto che un'altra cosa dice che possono andare a essere pagate le compensazioni se esistono già delle cartelle esattoriali. Arrivo al succo: se un'azienda, e ce ne sono tante nel nostro settore, ce ne sono tante, ha sempre rispettato i propri obblighi fiscali e quindi non ha cartelle esattoriali semplicemente perché ha sempre pagato, non avrà nessun tipo di compensazione, non potrà, quindi quella parte, diciamo, dell'intervento va soltanto, e per carità ci sta anche che vada a sostegno di coloro che per difficoltà non hanno potuto accedere, però ripeto, taglia fuori tutti quelli che hanno sempre pagato puntualmente fino all'ultimo centesimo di euro. Ecco, queste sono le più rilevanti, a mio avviso, delle situazioni che fanno sì che da un provvedimento che nasce con delle ottime ottime buone intenzioni, viene partorito un topolino che al momento, e restringo ovviamente qui il campo al mio settore di intervento, cioè al settore dei dispositivi medici per la sanità, darà veramente dei pannicelli caldi. Bene, io non posso che sottoscrivere ogni singola parola del presidente di Assobiomedica Stefano Rimondi e sottolineare che la mia delusione è vedere tutti i giornali italiani, tutti o quasi, naturalmente quelli economici specializzati meno, ma tutti i giornali generalisti avere ieri sparato i titoloni sui finalmente provvedimenti per mandare a pagamento i debiti commerciali dello Stato, ma la spiegazione di queste come di altre aspetti inaccettabili di queste misure che confermano la natura repressivamente autotutelante di un ordinamento che ci tratta da schiavi, lo mette nelle norme oramai, come ha sottolineato il presidente Rimondi. Non è che solo ci si comporta di fatto, oramai scrive le proprie norme allo Stato in maniera tale da codificare il fatto che noi non possiamo permetterci di applicare le leggi nei confronti dello Stato. Le leggi si applicano solo nei confronti dei sudditi da parte dello Stato. Ecco, non capire che l'accettazione progressiva di ciascuna di queste violazioni gravissime nei provvedimenti che impattano sull'esistenza in vita di impresa, reddito e lavoro significa capitolare, perché lo Stato andrà sempre avanti peggio così. Quindi io mi affido alle parole dei tanti presidenti Rimondi d'Italia per dire che è il caso di svegliarci ed è il caso di iniziare a dire adesso basta. This is the end, beautiful friend. Eccoci qui tornati sempre con i Doors. Abbiamo collegato con noi un imprenditore, un piccolo imprenditore che ci ha scritto da Bari, e anche lui è una società di ingegneria che tra l'altro si occupa di risparmio energetico e tra l'altro offre servizi, pensate, per migliorare il controllo sui errori di fatturazione di energia elettrica degli enti pubblici, quindi offre servizi per migliorare l'efficienza e per consentire agli enti pubblici di incassare il giusto. Naturalmente non è pagato neanche lui, anche se offre allo Stato migliore efficienza, come è giusto, mica potrà pretendere di essere pagato, però non ci ha scritto per questo Pantaleo, ma ci ha scritto per un altro caso emblematico su cui riflettere, cioè la tassazione delle borse di studio, lo Stato che riesce a farsi male anche nelle poche risorse che destina a queste cause. Di cosa si tratta di preciso? Pantaleo, buongiorno innanzitutto e grazie di essere con noi. Grazie a lei, dottor Giannino, perché ci dà questa possibilità, insomma, di esprimere la voce a noi che probabilmente non abbiamo altri modi per esprimerci. In sostanza, una nostra collaboratrice nel 2009 ha partecipato a un'iniziativa, si chiama Ritorno al Futuro, una bella iniziativa della Regione Puglia, che finanziava dei progetti per giovani laureati disoccupati. Non solo, questi soggetti dovevano comunque mantenere lo stato di disoccupazione per tutta la durata del progetto. Ha ricevuto, dopo aver vinto questo bando, ha ricevuto, nel nostro caso sono 19.000 euro, ma comunque le borse oscillano tra i 7.000 e i 25, e servivano sia per dei progetti di ricerca che per dei master finanziati appunto dalla Regione Puglia. Il 50% del finanziamento era a carico dello Stato e della Regione, e quindi è stato tassato regolarmente nel momento in cui le borse sono state erogate, cioè nel 2011, all'aprile 2011. Il restante 50% era a carico dell'Unione Europea. Per un principio ormai consolidato che la Regione Puglia ha sempre rispettato in passato per bandi precedenti, questo 50% non è stato tassato. A distanza di un anno, sostanzialmente solo adesso, a maggio 2012, stanno arrivando ai ragazzi i CUD, nei quali con una semplice annotazione in fondo a piedi pagina c'è scritto che a seguito di una circolare del Ministero del Lavoro dell'ottobre 2011 e della successiva nota della Direzione Regionale Puglia, la 82-85 del 14 marzo 2012, quindi persino in ritardo rispetto all'emanazione dei CUD, perché i CUD, come sa, devono essere emessi entro febbraio. Entro febbraio. Hanno ribaltato l'interpretazione precedente, tra l'altro più volte rimarcata dalla Corte di Giustizia Europea anche nel 2007, per cui i beneficiari dei fondi comunitari non devono essere tassati, e sostengono che al contrario, i beneficiari, il beneficiario del finanziamento è la Regione Puglia, in primis, che poi agisce come sostituto di imposta nei confronti di questi ragazzi che di fatto percepiscono dei redditi che sono assimilati. Allora, Pantaleo, io dopo, da quando ho ricevuto la sua lettera, mi sono informato, diciamo, con i miei colleghi, e però sono professionisti del ramo, e vi invitano a resistere, nel senso che la natura della nota dell'agenzia, che è una dell'agenzia regionale delle entrate della Puglia, incardina sulla figura del sostituto di imposta della Regione Puglia un ragionamento che è del tutto improprio, perché è la natura sostanziale del contributo comunitario che conta nel nostro ordinamento. Quindi, che lo Stato localmente assetato e centralmente, ma in tutte le sue articolazioni dell'Agenzia delle Entrate in questo caso, tenti di mettere, diciamo così, in cassa cose quando non ha diritto secondo l'ordinamento di farlo, deve vedere una reazione, per quanto sia una rottura di scatola e costi, che richiami l'Agenzia delle Entrate della Puglia all'interpretazione che fino a questo momento è sempre stata inequivoca. Prevale la natura sostanziale del contributo comunitario non tassabile sulla eccezione formale del sostituto imposta Regione Puglia, perché i soldi vengono di là ed è un principio comunque che fino alla sede europea non può che darvi ragione. Quindi questa è la mia opinione, naturalmente confortatevi dell'opinione di pareri più fondati, ma sono certo che si debba fare così. Sono perfettamente d'accordo, dottor Giannini. In effetti non abbiamo la possibilità comunque di reagire diversamente, perché non essendoci un provvedimento, diciamo, legislativo che ha modificato, certo, esatto, modificato la sostanza delle cose, non possiamo neanche impugnarlo. Quindi l'unico modo che abbiamo attualmente è quello di fare obiezione civile, cioè non pagheremo, aspetteremo purtroppo gli accertamenti che, esatto, arriveranno automaticamente. Esatto. Stiamo parlando, dottore, di sostanzialmente 2.000-3.000 sì, ragazzi. Sì, ma infatti, ma questo è... No, ma bisogna farne una questione civile per loro e per dire allo Stato: giù le mani, miserabile ladro, punto. Mi scusi se ho alzato la voce, lo faccio apposta. Grazie anche a Pantaleo che ci ha consentito di iniziare una battaglia anche per questi 3.000 che hanno la borsa di studio europea, a cui lo Stato chiede i soldi, incredibilmente. Stanislao da Napoli, rapidamente, che ci dice sui pagamenti? È contento dei decreti? Salve, dottor Giannino, innanzitutto la ringrazio perché lei sta portando avanti una battaglia di onestà intellettuale nei confronti dello Stato, perché la stampa, come ha detto spesso, dimentica le ragioni delle imprese, che a quanto pare sono quelle uniche che poi mantengono questo paese. Io rappresento un'organizzazione che si chiama Imprese del Sud e siamo rimasti sconcertati perché abbiamo fatto, siamo stati fra le varie organizzazioni che si sono fatte promotrici di questa, di questi decreti. E ci dica, come... questi decreti in che cosa non soddisfano, secondo voi? sono un fumus, sono una truffa. Cioè, sì, qualcuno ha detto giustamente, è un segnale, almeno lo Stato riconosce che ha qualche debito. E questo ci fa piacere. Diciamo, noi lo sapevamo, lo sapevano tutti, adesso ce l'hanno anche detto, però ci hanno anche detto che praticamente è impossibile recuperarli. Regioni come la Campania sono di fatto escluse. Esatto. Ma non è solo il meccanismo che poi hanno messo in piedi che ha degli elementi veramente grotteschi, cioè aggiungiamo alle varie lentezze, ai vari ritardi, un'altra procedura che non so se durerà, cioè se la leggiamo sulla carta, fra un anno e mezzo forse mi certifica un credito. Stanislao, io purtroppo lo so che il tempo è tiranno, l'ho chiamata troppo tardi la linea per lei, e comunque, come vedete, non sono io l'unico pazzo e continueremo su questo a dire: Stato, rassegnati, ci potrai uccidere ma non ci potrai far stare zitti. A domani. Radio 24, la passione si sente.